Buonasera. Buonasera, buonasera. No, potete buonasera, buonasera. Questo è il gioco. Vabbè, parliamo seriamente. Dì alla persona che ti sta a fianco, ascolta quel che verrà detto e non guardare il cellulare. Una delle cose che credo che sia più maleducata è quando uno sta parlando e noi guardiamo il cellulare. E figuriamoci quando pensiamo che il Signore sta parlando e noi guardiamo il cellulare. E non mettiamo la scusa che stiamo prendendo appunti perché non lo so quanto è vero. Comunque, il pastore ha già anticipato che siamo alla fine di una decade. Inizia il 2020. Cioè veramente sembra che le macchine andranno a volare. E la fine dell'anno, la fine di ogni anno, è sempre il momento nel quale si fanno i bilanci, anche se non sei una grande azienda, sei una famiglia, però inizi a vedere come è andato quest'anno. E quando hai fatto i bilanci, subito dopo si fanno i buoni propositi, si fanno le promesse per l'anno nuovo. Non mi dite che l'ho fatto solo io o che lo faccio solo io. Ve ne dico alcuni. L'anno prossimo voglio dimagrire. Chi è che sta con me? Più di uno. L'anno prossimo voglio dedicare più tempo alla famiglia. Di meno. Molto anche. Ce n'è uno che va bene per tutti ed è il più innocuo. Innocuo, sì. L'anno prossimo voglio essere più buono. Chi è che non l'ha mai detto? Chi è che non l'ha mai detto? No, l'abbiamo detto più o meno tutti. Questo mette in noi in luce il fatto che comunque vogliamo qualcosa di diverso per il nostro domani, per l'anno prossimo vorremmo, o per domani stesso, per il nostro futuro vogliamo qualcosa di diverso, di migliore, di più bello, di più appagante, che ci renda più felici. E a causa di questo facciamo anche delle promesse che a volte rimangono solo dei buoni propositi, qualche volta si tramutano in realtà. Comunque le decisioni che prendiamo sono esattamente la strada che noi andiamo a tracciare per il nostro futuro, per il nostro cambiamento. E se noi ci riflettiamo un attimo, le decisioni cambiano la storia nostra, cambiano il nostro futuro. Io voglio farvi degli esempi concreti. Immaginate un poco che Pinocchio, invece di vendere il libro della scuola, l'abecedario, per andare al teatro dei burattini, veramente fosse andato a scuola e fosse diventato un libero professionista di successo. Pinocchio, se diventava un libro professionista di successo, tutte le pene di Geppetto, la balena, non ci sarebbero state. Anzi, vi dirò di più, Pinocchio sarebbe diventato un libero professionista, una persona abbastanza ricca, abbastanza in vista, e avrebbe sposato la strega di Biancaneve. Perché? Perché la strega di Biancaneve, prima di essere strega, era una fata. Ma è logico, perché uno non può essere strega se non è fata prima. E se la strega di Biancaneve era felice e contenta a casa sua con suo marito, non andava allo specchio a dire: specchio, chi è la più bella? Qui non gli dava la mela avvelenata. Biancaneve e sette nani, soprattutto i nani, potevano stare belli, contenti, senza avere complicazioni. Anzi, vi dirò di più, Pinocchio e la fatina avrebbero avuto due figli maschi, che si sarebbero sposati con i figli della matrigna della storia di Cenerentola. È logico, è così. Le figlie della matrigna di Cenerentola sarebbero state più tranquille, non avrebbero maltrattato Cenerentola, non avrebbe passato tutto quello che ha passato quella poverina, e sarebbe stato più lineare. E comunque Cenerentola lo stesso sarebbe diventata principessa, perché la fata madrina il suo lo doveva fare, quindi il principe azzurro e tutto lo doveva trovare. Quindi alla fine potevano vivere tutti felici e contenti senza avere un sacco di problemi, senza avere un sacco di complicazioni. L'unica cosa che non sarebbe cambiata alla fine sarebbe stata la storia di Cappuccetto Rosso. Perché? E perché Cappuccetto Rosso non c'entra niente con tutta questa storia. Però nella storia di Cappuccetto Rosso c'è qualcosa che non funziona, perché l'unico che fa veramente il suo dovere è il lupo. Il lupo sta nel bosco e si mangia le cose che vengono per vivere. Invece lui è il cattivo. E io, secondo me, lui non è cattivo, è il normale. Gli altri qualcosa di sbagliato l'hanno fatto. Che comunque, se proprio proprio la vogliamo dire tutta, Geppetto, prima di lasciarsi, di trovarsi solo con Pinocchio, stava con la mamma di Cappuccetto Rosso. Quelli erano sposi. Sì, fidatevi. E così, cioè, si chiude completamente il cerchio. Le decisioni. Vi rendete conto? Noi scherziamo sulle favole, ma guardiamo alla nostra vita. Quanto le decisioni hanno influito, hanno deciso il percorso della nostra vita. E le decisioni sono qualcosa di importante, sono qualcosa che è nelle nostre mani. Tutti quanti siamo chiamati a fare delle decisioni ogni giorno. Che vogliamo o non vogliamo, facciamo delle decisioni. E una decisione può cambiare il destino della nostra vita. E siamo, credo, d'accordo che se è una decisione buona la cambierà in meglio, se è una decisione cattiva, sbagliata, la cambierà in peggio. Ma ogni giorno siamo chiamati a fare decisioni e dobbiamo imparare a dare il giusto valore, il giusto peso alle decisioni. E ci sono delle storie nella Bibbia che ce lo insegnano. In 2 Samuele, al capitolo 11, è narrata la storia di Davide. La storia di Davide che non era nel periodo migliore della sua vita. E leggiamo che a un certo punto, cioè nel versetto primo è scritto che doveva essere in guerra perché era il periodo delle guerre, cioè nell'Antico Testamento magari da febbraio a giugno facevano le guerre perché poi iniziava a far troppo caldo e andavano in pace, però quello era il periodo delle guerre. E Davide, invece di essere lì alla testa del suo esercito, ha mandato gli altri, ha detto andate voi che io magari vi raggiungo. E in 2 Samuele leggiamo, dalla terrazza vide una donna che faceva il bagno e la donna era bellissima. Così Davide mandò a chiedere informazioni sulla donna e gli fu detto, è Batsheba, figlia di Eliam, moglie di Uria, l'Oiteo. Davide mandò messaggeri a prenderla, così essa venne da lui, si coricò con lei, ella poi si purificò dalla sua impurità e ritornò a casa. E sembra che Davide quella sera era un po' annoiato, aveva un po' la susta, così. E capita anche a Davide, non capita solo a me, capita anche a Davide. E allora lui ha pensato, ha detto, voglio fare una serata alternativa. Ed è uscito sulla terrazza e ha avuto quell'occasione che abbiamo letto. In questi pochi versi ci sono 3 decisioni che Davide ha preso. 1. Non era dove doveva essere, non era dove Dio lo chiamava a essere. Dio lo chiamava a essere in battaglia, alla testa del suo esercito, a combattere. E invece lui stava sul terrazzo, a prendere il fresco. Davide aveva scelto di guardare quello che non doveva. Dio aveva detto non desiderare la donna ad altri. E lui invece stava guardando e prende di informazioni pure, non è che ha dato un'occhiata, poi si è fatto più sotto e ha visto bene bene, e siccome non era convinto ha chiamato a prendere informazioni, stava guardando qualcosa che non doveva e poi alla fine ha preso qualcosa che non era suo. E noi sappiamo le conseguenze di questa storia. Alla fine della storia c'è stato un lutto, c'è stato un omicidio premeditato e forse ha toccato Davide il punto più basso della sua vita di re. E da dove è iniziato questo? Da una decisione che non è poi così grave, voler avere una serata diversa dal solito. Il peccato è sempre una decisione. E tu e io sappiamo dove inizia, ma non sappiamo dove ci porta. Sappiamo come inizia, ma non sappiamo dove va a finire. Io non credo che Davide aveva in mente la premeditazione di compiere un omicidio. Voleva soltanto divertirsi un poco, che quello era il re. Era il re, permetti. Eppure si è trovato a compiere omicidio. E tutta la sua vita e tutta la sua famiglia è stata segnata da questo episodio. Il peccato è sempre una decisione. Noi non è che cadiamo nel peccato. Noi ci tuffiamo nel peccato. Noi ci tuffiamo nel peccato. Perché comunque è sempre una nostra decisione. Un'altra storia che io voglio nominarvi è quella dove noi ci possiamo rendere conto che non decidere è comunque una decisione. Quando noi decidiamo di non decidere niente, di lasciare tutte le cose come stanno, stiamo decidendo. E questa è la storia del giovane ricco. In Luca 18:22 è scritto: udito ciò Gesù disse. Adesso io voglio aprire una parentesi su quello che Gesù aveva udito. Gesù aveva incontrato questo giovane ricco, dice: Signore, come faccio io per, maestro buono, come faccio per ereditare la vita eterna? Ci fai così, così e così, onora tuo padre e tua madre. E il giovane ricco gli ha detto: ma io con tutte queste cose sto già a posto. E lì il Signore ha detto: devo stare attento qua, sto parlando con qualcuno da cui ho qualcosa da imparare, perché si è ricordato quel che lui aveva fatto a 12 anni. A 12 anni Gesù, sapete che aveva fatto? Volontariamente si era perso, un po' come hanno fatto alcuni dei figli miei, che volontariamente si sono persi, e sono passati 4 notti e 5 giorni dopo che i genitori l'hanno trovato. E quando l'hanno trovato, lui gli ha detto: beh, non lo sapevate che io dovevo stare qua. Ora, vabbè che Gesù era adottivo, però se era figlio a me, una piccola reazione forse ci sarebbe stata, piccola, perché non ti puoi permettere di rispondere così. Allora Gesù, quando si è ricordato tutte queste cose, dice: io ho di fronte a me qualcuno che alla fine ha fatto un percorso virtuoso. E allora ha iniziato a puntare su quel giovane. Alla fine ha detto: io chi c'ho qua? Io c'ho Pietro, c'ho Tommaso, questo qua è una carta vincente, cioè io punto su di questo. E gli ha detto proprio, quando ha udito queste cose, gli ha detto: ti manca una cosa sola. Ora, io non voglio farvi alzare la mano, ma quanti di noi possiamo dire che ci manca una cosa sola? E Gesù non dice mai le cose tanto per dire. Gesù sta dicendo a quel: ti manca una cosa sola. Io sono qualche step indietro da una cosa sola, va bene? Però questo giovane qua era a quel punto, vicino, vicino, vicino. Ti manca una cosa sola. Vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo. Poi vieni e seguimi. Ma egli, udite queste cose, si rattristò grandemente, perché era molto ricco. E da quel punto in poi non sappiamo più niente di questo giovane qua. Sparisce. Eppure doveva essere uno in vista, perché era una persona che è scritto era molto ricco. Prima o poi davanti uno ricco ricco lo trovi, che la Palestina quella è. Non sentiamo più niente. Gesù l'ha messo di fronte a una decisione che non doveva essere troppo difficile, perché una cosa ti manca, cioè se al Signore a me mi fa una lista, allora da dove devo iniziare? Ma se una cosa sola ti manca, tu ti senti già abbastanza realizzato. Ha deciso di non decidere, ha deciso di non fare niente, e noi di questa persona non sappiamo più niente. Potete immaginare che destino di vita aveva nella sua sapienza e nel suo amore Gesù immaginato per quel giovane ricco? Non sappiamo più niente. Tutto quel destino che, di vita che Gesù aveva immaginato per quell'uomo ha abortito, è finito nel nulla, nel niente. Non decidere ha comunque, è comunque una decisione e ha comunque delle conseguenze. Da essere un potenziale discepolo al completo anonimato. Questa è stata la fine che ha fatto il giovane ricco e gli mancava una cosa sola. Ora, la decisione è un po' diversa da quando noi ci sediamo e pensiamo no, io devo essere più buono, oppure devo dimagrire. Io devo dimagrire. Quante volte l'abbiamo pensato? Io proprio l'altra sera stavo con qualcuno che diceva, dal 1 gennaio, non è che ha detto devo dimagrire, ha detto mi devo alimentare correttamente, che è più fine, ma quella è la sostanza. La decisione è qualcosa di molto pratico, molto, molto immediato. E noi vediamo qualcosa del genere in un'altra storia, in Matteo capitolo 4, versetto 18. E Gesù all'inizio del suo ministero, che camminando lungo il mare della Galilea, vide due fratelli, Simone detto Pietro e Andrea suo fratello, i quali gettavano la rete nel mare perché erano pescatori. E disse loro, seguitemi e vi farò pescatori di uomini. Ora, ricordate un attimo, ha più senso dire a qualcuno, è più spirituale dire a qualcuno, vendi quello che hai dallo ai poveri, o dire, seguimi, io ti farò pescatore di uomini. Cioè, dire a dei pescatori, io ti farò pescatore di uomini, è come dire a un meccanico, io ti farò meccanico di prosciutto e mortadella. Uguale. Io non credo che quei discepoli, Simone e Andrea, hanno capito. Se lui gli avesse detto, Simone e Andrea, non gettate più le reti, fate un allevamento di cozze, perché a Bari se le mangiano anche crude. Avrebbero capito, ci sarebbe stato qualcosa che avrebbero potuto toccare, sperare. Seguimi o ti farò pescatore di uomini. Eppure, quello che è successo, essi, lasciate prontamente le reti, lo seguirono. Da lì capiamo lo spessore intellettuale dei discepoli. Da queste cose lo capiamo. Ma è proprio quello che ha permesso a Gesù di agire attraverso di loro e di raggiungere con l'Evangelo tutto il mondo allora conosciuto. E li ha fatti veramente pescatori di uomini. Gesù può fare veramente quello che ti ha detto. Per quanto ti può sembrare incredibile, per quanto ti può sembrare assurdo, per quanto ti può sembrare fuori luogo, meccanico di mozzarella e provolone, Gesù quello che dice di fare lo fa veramente. E quando lo fa veramente? Quando noi crediamo e quando noi decidiamo. Una decisione senza azione è illusione. Se tu dici io voglio dimagrire e continuo a mangiarti San Rocco con tutto il cane, non dimagrirai mai. Siete d'accordo con me? Vi vedo un po' perplessi. È così. Ma prendere una decisione significa poi agire di conseguenza e fare quello che porta a realizzare quella decisione. Voglio raccontarvi una cosa. Al lavoro mio è un po' di tempo che la situazione non è proprio lineare. E questo suscita dentro di me dei sentimenti di amarezza. E questo è come per me, io l'ho immaginato, come prendere una goccia di veleno ogni giorno. Perché? Perché quando c'è qualcosa che ti affligge, ti toglie la gioia, tu piano piano ti spegni un poco. E io mi confronto con questo, perché ci penso, ecco perché mi confronto con questo. Parlo con mia moglie. E il Signore in un certo momento ha detto a me, senti, tu non puoi fare molto per questa cosa, però una cosa la puoi fare. Tutte le volte che ti trovi di fronte a determinate situazioni, benedici quelle persone. Ora, tutte le volte significa almeno 3, 4, 5, 6, 7, 8 volte al giorno. Non è tutte le volte, una volta ogni tanto. Ma proprio, allora ci sono due modi di vedere questa storia. O tu la vedi come una missione impossibile, o tu la vedi come il fatto che magari hai fallito un'occasione e ce n'è subito dopo un'altra. E io timidamente ho iniziato a fare questo fatto qua, timidamente. Funziona. Perché la situazione non cambia, le cose rimangono quelle che sono, ma io sto meglio. Una decisione significa iniziare a fare qualcosa. Qualcosa che forse non capisci, qualcosa che forse ti sembra stupido, qualcosa che forse ti sembra strano, qualcosa che forse assomiglia al dire vi farò pescatori di uomini, ma è Gesù che te lo dice. Non sono io. Non è il pastore. È Gesù che te lo dice attraverso il pastore. Perché non possiamo dar credito a questo? Perché non possiamo afferrarlo e dire ok, io ci credo? E dire, Signore, voglio fare la tua volontà, voglio decidere di fare la tua volontà. Quante volte noi abbiamo fantasticato con la nostra vita come abbiamo fatto con la favola di Pinocchio. L'altro giorno stavo parlando con mamma e gli ho detto, ma ci pensi se io invece di fare la scuola che ho fatto facevo un'altra scuola? A quest'ora sarei qualcosa di diverso. E siamo stati a parlare, a dire, poi andate a chiedere a lei i dettagli se volete. Ma questo è fantasticare, perché la mia vita è questa. La tua vita è quello che stai vivendo. E tu puoi dire quello che vuoi e puoi dare la colpa a Pinocchio, che ha venduto il libro della scuola. Ma quello che stai vivendo è il risultato delle decisioni che hai fatto. Amen, non è tanto una cosa, perché a volte le decisioni che abbiamo fatto non sono proprio quelle che avremmo dovuto fare o che avremmo voluto fare. E noi abbiamo fantasticato e qualche volta fantastichiamo con la nostra vita. Magari ci vediamo magri, però poi ci svegliamo. E ci svegliamo e ci confrontiamo con le conseguenze delle decisioni che abbiamo fatto, con le conseguenze delle decisioni che abbiamo preso, o con le conseguenze delle decisioni che non abbiamo preso, che hanno forse ucciso un destino di vita che Dio ha per noi. Io vorrei che questa sera noi possiamo mettere i piedi per terra e iniziare a pensare. Che decisioni il Signore mi sta chiedendo di prendere? Che decisioni il Signore mi ha chiesto di fare che io non ho fatto? Sapete perché? Perché magari delle decisioni che io ho preso, le ho prese a 18 anni, oggi ne ho 59, Ma questo è il momento della grazia. Per me è ancora il momento della grazia. Io posso ancora decidere qualcosa di buono per la mia vita. Perché Gesù me ne dà la possibilità di farlo. Dopo che sarò morto, non potrò decidere più niente. Sapete, ci sono due giorni nei quali noi non possiamo decidere, che non sono Natale e Santo Stefano. Sono ieri e domani. Perché ieri è andato via e domani non ce l'hai nelle tue mani. Quello che è nelle tue mani è adesso. Significa che tu adesso puoi fare delle decisioni e decidere qualcosa che può influenzare la tua vita per raccogliere quei frutti che il Signore ha preparato per te. Puoi riprendere quella decisione che non hai mai preso, che hai sempre rinviato, per liberare quel destino di vita che il Signore ha preparato per te. Con questo amen sono più d'accordo. Questo è il momento opportuno per fare quello che il Signore ci chiede di fare. E io ho messo in evidenza tre possibilità di decisione. La prima decisione è quella di abbandonare il peccato. E quando io parlo di peccato, non sto parlando, è quello dove ci andiamo a tuffare. Quello dal quale non siamo mai usciti, quello che ci definisce, quello che non ci fa vedere la luce, quello che ci fa vergognare. Questa sera tu puoi decidere, perché quando abbiamo cantato tu hai vinto, Gesù ha vinto veramente. Gesù ha vinto veramente. E se lui ha vinto, noi possiamo decidere di vivere in quella vittoria. Chiaramente dovremmo fare delle decisioni che ci permettono, cioè decisioni significa quando è il tempo di andare alla guerra e non andare sul terrazzo o in internet o da una parte o dall'altra. Quelle sono decisioni nostre, ma noi possiamo decidere di farlo. Noi possiamo creare degli alleati, noi possiamo dire a nostra moglie, moglie mia, io ho questo problema, per piacere preghiamo assieme. Signore, è quello che ci vuole mettere in libertà. Abbandonare il peccato è una decisione. Altrettanto ferma e forte come una decisione, quella di tuffarsi dentro. Lasciare andare le cose che non si possono cambiare. Noi ci ritroviamo a vedere, mo, però non doveva andare così. È andata diversamente e non possiamo fare più niente. E magari stiamo ancora soffrendo. Ci sono delle cose che faccio fatti. Quando ci penso, è meglio che non ci penso. Lasciale andare. E quando io dico lasciale andare, l'ho detto a me prima, non lasciale andare perché ti devi arrendere, perché non puoi fare più niente, perché ormai è andata così. No, lasciale andare perché il Signore è il Signore anche di quelle situazioni. E se va bene per Lui che è andata così, può andare bene anche per te. Perché Lui è il Signore. E ognuno di noi può pensare alle sue situazioni, può pensare al suo vissuto, al trascorso della sua vita. E tu puoi dire oggi, Signore, è andata così, ma tu c'eri e tu sei il Signore di quella situazione e io mi voglio credere che tu sei il Signore e non che è capitato e voglio fidarmi di te. E ci possono essere dei dolori familiari, ci possono essere delle malattie, ci possono essere delle delusioni, ci può essere di tanto nella nostra vita. Lascialo andare, decidi di lasciarlo andare, perché Gesù è il Signore. E lui, quando è successo quel fatto, non è che stava distratto, era andato un attimo al bagno, oh, è successo e non ha fatto in tempo. Il Signore è il Signore. E quando lui dice io sono il Signore della terra, lui è veramente il Signore della terra. E se è andato così, andava bene così. E io posso accettarlo e riposarmi nel fatto che lui è il Signore. E questo ti aiuterà a lasciare andare l'amarezza, a lasciare andare il rancore, a lasciare andare la delusione e riaccendere la fede e riaccendere la speranza e riaccendere la visione. La visione non si riaccende perché a gennaio abbiamo i culti del Vision Day o Vision Sunday. La visione si riaccende perché tu e io iniziamo a credere che Gesù è il Signore. E questo ci rende utili e adatti a calarci nella visione che il Signore ha dato al pastore per la nostra Chiesa. Ma se noi ci togliamo e vogliamo conservare quello che siamo e dire, Signore, però quella volta che è andata così, hai sbagliato, perché non doveva andare così. Perché questo è il sentimento di fondo. Io lo riconosco in me e forse tu lo riconosci in te. Lasciarlo andare significa, ok Signore, è andata così. Io voglio riconoscere che tu sei il Signore, voglio darti la lode e la gloria. Un'altra cosa che possiamo fare è perdonare. Perdonare, ricordiamolo qualche settimana fa, è condonare un piccolo dono affinché ci sia condonato un grosso debito. Comunque ci devi rimettere qualcosa. Ma è sempre di più quello che guadagni di quello che ci rimetti. E molte volte la persona che io devo perdonare di più sta dentro di me. Perdona, decidi di perdonare. Perdonare in qualche modo significa non guardare più indietro, ma iniziare a guardare a quello che sta davanti. Tre decisioni. Lasciare andare il peccato. Lasciare andare le cose che non possiamo cambiare. Lasciare andare il desiderio di vendetta. E prendere quello che Gesù ha da offrire. Forse non lo capiamo, come i discepoli non hanno capito, vi farò pescatori di uomini. Forse lo stanno ancora a domandarsi, ma che cosa volevi dire? Vi farò pescatore di uomini. Ma non è importante capire, è importante fare. Allora io vorrei che questa sera noi potessimo cogliere questa occasione che il Signore mette dinanzi a noi per fare delle decisioni. Tu sai che decisione devi fare, se devi decidere riguardo a te stesso, riguardo alla tua famiglia, riguardo al tuo lavoro, tu lo sai. E tu puoi dire, Signore, io voglio prendere una decisione. Non voglio fare come al giovane ricco che la rinvio a domani, perché questo mi fa rimanere anonimo e non mi fa realizzare quello che tu hai preparato per me. Ma io voglio essere vivo. Essere vivo significa decidere. Quindi vorrei che chiunque che vuole o si sente spinto a fare una decisione si può alzare in piedi, in modo che poi può fare la sua preghiera al Signore. Poi preghiamo magari assieme e diamo un valore a questa parola che Dio ha voluto affidare alla sua Chiesa. Lo potete fare anche a Mottola. E ringraziate il Signore per questo dono meraviglioso dello streaming, perché voi potete avere il calore, ma qui c'è la parola di Dio, qui com'è, com'è lì. Quindi possiamo agire come lo sentiamo. Se senti che devi decidere, ti puoi alzare in piedi. Signore Gesù, io ti voglio personalmente ringraziare per questa parola, perché è, per me è molto, molto reale, molto pratica, e io ho bisogno di fare delle decisioni, e ho bisogno anche del tuo aiuto, che mi aiuti a rimanere fermo, efficace e vero nelle decisioni che prendo. Signore, io ti prego per me, per ognuno di noi che è qui e che ha preso questa iniziativa di voler dare un accento personale a questa parola, mettendosi in discussione. Signore, tu vedi i nostri cuori, tu certamente sai quello di cui abbiamo bisogno, e la tua parola dice che in te ci sono anche le risorse per poter fare quella che è la tua volontà. Tu non ci lasci soli, Signore, ma sei con noi ogni giorno nella decisione che prendiamo. Per questo ti vogliamo ringraziare, vogliamo benedire il tuo nome, vogliamo dare a te tutta la lode e tutta la gloria. Nel nome di Gesù. Amen.